Noi le guarderemo, faremo la nostra gallery. Esatto, un album dei ricordi. E intanto continuiamo a sfogliare il nostro album dei ricordi di Cuore Denari. E infatti non possiamo non ricordarci della puntata in cui è venuto a trovarci, come vi anticipavo poco fa, Marco Montemagno nel corso della presentazione a Milano del suo libro Codice Montemagno. Questo seguitissimo divulgatore ed imprenditore digitale ci ha parlato delle opportunità offerte dal mondo online in ambito lavorativo, dandoci tanti consigli per diventare con successo imprenditori di noi stessi. Andiamo allora a riascoltarli. Come si diventa imprenditore di se stessi e soprattutto che cosa significa questo concetto? Allora, noi abbiamo un contesto, Nicoletta, quello italiano del mercato del lavoro, che è un po' complicato, ne parliamo spesso qui a Cuore Denari, certo. Ci sono tante difficoltà, il dibattito si concentra prevalentemente sui numeri, quanti nuovi posti di lavoro si creano da un mese all'altro, quali sono le nuove tipologie contrattuali prodotte, portate dal Jobs Act, ecco qua qual è il livello appunto della discussione in Italia. Molto meno si parla invece di coloro, di colui o colei che invece vogliono puntare tutto su se stessi, sulle proprie doti, i propri talenti, risorse e capacità per avviare magari una propria iniziativa professionale ed imprenditoriale. Le nuove generazioni puntano soprattutto alla sfera digitale, generazioni di nativi digitali naturalmente per definizione, magari per i giovani questa evoluzione è più semplice, un po' meno semplice per la generazione nostra, quelle di passaggio, che invece guardano ancora qualche volta al mondo digitale con qualche sospetto e qualche difficoltà. Allora oggi a Cuore Denari, con il nostro consueto spirito pratico e propositivo, abbiamo deciso di mettere a disposizione degli ascoltatori che stanno magari accarezzando proprio in questo momento l'idea di lanciarsi nella libera iniziativa imprenditoriale uno dei più noti imprenditori digitali che si conoscano, creatore di startup, esperto di strategie digitali a cui si rivolgono aziende, istituzioni, ma anche ex giocatore professionista di ping pong, padre di 4 figli, e perché questa è la vera startup, ha detto lui, della sua vita, ha un seguito sui social network di oltre 300.000 persone, e qua per regalarcene qualcuna che magari arricchisca il nostro profilo Facebook. Ma poi potrei continuare ancora a lungo a fare il suo biglietto da visita. Marco Montemagno, benvenuto a Cuore Denari. Ce l'abbiamo fatta, presentarvi. Wow, vorrei prendere questo estratto audio e usarlo come la mia presentazione ufficiale. Ma sei autorizzato, sei autorizzato. Mi pagherò delle royalties. In questi giorni sei in piena promozione del tuo libro Codice Montemagno, diventa imprenditore di te stesso grazie al digital. Prima di cominciare la scaletta vera del nostro programma, andiamo con la classica domanda di rito. Come nasce questo libro? Allora, io da 2 anni ho iniziato a fare video online per hobby, questa è la verità, per hobby ho cominciato a fare video online e ho detto, mi alzo la mattina, avevo un'oretta di tempo, alle 5:30 mi alzo, faccio questi video, vado a fare la mia corsettina, faccio questi video e poi porto uno dei miei figli a scuola. Ho iniziato a fare questi video per hobby, all'inizio non li ha guardati nessuno, poi a un certo punto hanno cominciato a prendere piedi, adesso stanno andando molto bene. La verità è che quando tu sei su Facebook, è vero che io oggi ho una reach, quindi raggiungo circa 22 milioni di persone al mese, che è un buon numero, ma... Sì, discreto direi. Ci sono... Impegnati, puoi fare di meglio. Sì, però voglio dire, non è che tutta l'Italia sta online, e quindi tu hai milioni di persone che invece non stanno online, e il libro, io sono un amante di libri cartacei peraltro, può essere un ottimo modo per raggiungere, quindi andare in libreria è un modo per raggiungere persone che invece non passano da Facebook e non hanno voglia di passare da Facebook, ed è un'ottima modalità. Senti, vorrei andare subito ad una prima provocazione per te, perché naturalmente il primo impatto della copertina è quello che ci serve poi naturalmente a far partire tutte le nostre considerazioni, e subito con questa affermazione che tu scrivi nella quarta potremmo già scatenare qualche perplessità, se non qualche disappunto per i nostri ascoltatori che magari in questo momento il lavoro non ce l'hanno, lo stanno cercando e dal mondo del lavoro si sentono respinti. La tua frase è: il lavoro non si cerca, il lavoro si attrae. Ce la puoi un po' argomentare meglio per evitare, come dicevo, questo disappunto nei confronti di chi invece adesso... Guarda, ti faccio un esempio pratico. Se tu oggi vuoi trovare lavoro, hai due possibilità. Ipotesi numero uno: inizi a prendere il tuo curriculum e cominci a mandarlo, a spammarlo a tutte le aziende che trovi in circolazione, a tutte le offerte di lavoro che vedi in giro, a tutte le aziende dirai: ah, caspita, adoro la tua azienda, ecco il mio curriculum, mi piacerebbe avere un colloquio con te. Probabilità di successo è possibile anche vincere al casinò, voglio dire, no? E quindi si trova anche lavoro così, ma è molto molto difficile. Perché? Perché le aziende dall'altro lato ricevono migliaia di curriculum e quindi è difficile farsi notare in questo modo. L'ipotesi 2 invece è che tu dici: guarda, io voglio trovare lavoro, quello che faccio è mi costruisco online un mio brand, un mio posizionamento, e quindi se sono, che ne so, uno che fa il webmaster, faccio siti web, al posto di mandare curriculum, apro una mia pagina Facebook, certo, ad esempio, ogni giorno carico dei contenuti, che il mio suggerimento è video, perché il video è la modalità migliore che funziona ad oggi come sì, numero di persone da raggiungere. Ogni giorno carico dei contenuti dove aiuto le persone a capire come si costruisce un sito web. Fai in modo che siano le aziende a cercare te. A questo punto devi darti del tempo. Non è facile, non è che dal giorno alla notte questa cosa succede. Ma se ti dai del tempo, 6 mesi, 12 mesi, a questo punto tu hai la possibilità di costruire una tua immagine. E quando un'azienda cerca, ok, ho bisogno di un webmaster specializzato in siti per la moda, e io sono webmaster in siti della moda, e tu su Facebook mi trovi in continuazione, trovi i miei video, sono utili, sono in gamba e ho un seguito, preferisci me o preferisci, certo, un tizio sconosciuto? Insomma, sviluppi una sorta di piano di marketing su te stesso, che forse non richiede neanche un esagerato investimento in termini economici, ma sicuramente, bravissima, in termini di attenzione. Questo è un tema importante. Perché poche persone lo fanno? Perché è faticoso, questa è la verità. Sì. È molto più facile allegare un curriculum standard, mandarlo. Io l'ho fatto, voglio dire, l'ho fatto, so perfettamente quanto sia semplice farlo. Dall'altro lato, se vuoi investire su te stesso, questo richiede tempo, richiede uno sforzo, richiede competenza, devi diventare padrone della materia di cui parli e chiaramente ti devi mettere in discussione. Ma il costo del fallimento è molto basso online. Mm-hmm. Voglio dire, non è che devi investire 100 milioni di euro per costruire la tua pagina Facebook. Apri la pagina Facebook, prendi il tuo cellulare alla brutta, tutti abbiamo un cellulare, sì, mm-hmm, fantastico, inizi a caricare dei video e di lì cominci a costruire quello che è il tuo, diciamo, personaggio online. Alla base deve sempre esserci una grande competenza. Se ci fosse qualche ascoltatore in procinto di lanciarsi in una piccola personale avventura imprenditoriale, che cosa gli possiamo chiedere oggi per stuzzicarlo, per fare una riflessione su se stesso, per fargli capire se è sulla strada giusta? Quali tre cose: qual è il tuo interesse principale, quindi qual è la tua nicchia di mercato principale, dov'è che potenzialmente vedi un mercato disposto a pagare per te, dove potenzialmente potresti essere numero uno e soprattutto che cosa ti interessa. Da bambino, quando andavo al mare, avevo un amico che parlava sempre dei suoi progetti per il futuro. Ricordo che una volta era a tavola con i genitori e c'ero anch'io. A un certo punto iniziò a raccontare quello che voleva fare da grande. Fece una casetta con delle carte. Poi spiegò che da grande avrebbe voluto fare l'edicolante per poter vendere Topolino e i fumetti americani. Non smetteva di parlare, esponendo il suo progetto con grande entusiasmo. Dopo 5 minuti, all'improvviso, il padre diede una botta al tavolo, che rasò al suolo quel castello costruito con tanto amore. Poi lo guardò e gli disse: «Ecco i tuoi progetti. Vi do un consiglio spassionato. In qualunque tipo di rapporto vi troviate con le persone appartenenti a questa tipologia, che sia parentale, non parentale, spaziale, astrospaziale e così via, bisogna correre via, veloce come Bolt, lontano, il più possibile». Il nostro Bolt di oggi è Marco Montemagno, che sta presentando in questi giorni il suo codice Montemagno, diventa imprenditore di te stesso grazie al digital, è conosciutissimo, vedo anche dalla comunità di Cuore Denari che arrivano un sacco di complimenti, ti chiamano anche Monti. Monti da è il mio soprannome. Eccoci qua, in questo passaggio del tuo libro parli di correre via veloce come Bolt, allora riprendo con una domanda, Marco, un po' indiscreta, è un po' anche questo il motivo che ti ha portato ad andare a vivere in Inghilterra? In Italia soffiava o soffia un vento poco costruttivo per incoraggiare progetti come i tuoi? Ma io in realtà ho fatto blogosfere, peraltro appunto comprato poi da Sole 24 Ore, sì, quindi siamo in casa tanti anni fa, ormai 10 anni fa, qualcosa del genere. L'ho fatto in Italia, non l'ho fatto all'estero. In Italia ci sono un sacco di startup super che stanno nascendo e sono italiane, quindi ci sono un sacco di ragazzi in gamba. Se uno vuole fare un'azienda, un'iniziativa, non ho mai visto un momento migliore di questo, paradossalmente, no? Uno penserebbe il contrario, invece guardate online e vedrete la quantità di persone che lanciano iniziative imprenditoriali, piccole, di una persona, di due persone o più grandi. Quindi questo è il tema. Per quello che mi riguarda, mi sono trasferito perché la mia dolce metà è inglese e quindi era una scelta più personale che professionale. È un uomo cuore denari. Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. No, di fianco. O davanti. O davanti. Addirittura che guida. Marco, senti, no, in realtà abbiamo scelto questo passaggio del tuo libro perché mi ha molto colpito, adesso a prescindere dal fatto che molto spesso le famiglie nell'incoraggiare i progetti dei propri figli sono determinanti o scoraggiarli, ma anche tu focalizzi grande attenzione sul tema delle persone che ci circondano quando vogliamo sviluppare e portare avanti i nostri progetti, perché chiaramente le figure deleterie dobbiamo quanto più possibile allontanarle dalla nostra strada, dal nostro percorso. E c'è proprio un capitolo appositamente dedicato a questo, non solo del team che poi ci aiuterà a sviluppare la nostra idea imprenditoriale, ma anche nella sfera personale è molto importante qualche volta attrezzarsi con le persone giuste accanto. Tant'è vero che io mi sono messa insieme a Nicoletta, come dice la nostra, come è una coppia che si autoalimenta. Esatto, Marco. È così. A me non piace la narrativa, diciamo, data dai media di tutto il mondo. Quando si lancia un'iniziativa c'è sempre l'eroe solitario che ottiene il risultato. Ho avuto la fortuna di intervistare molti di questi personaggi e ti rendi conto, parlandoci, che la loro forza è la squadra che hanno messo intorno. Non crei Amazon da solo, sono centinaia di persone. Sì, puoi avere l'intuizione, naturalmente. Per cui avere un team di persone è fondamentale e devono essere le persone giuste. Facciamo questo esempio. Se tu fai un torneo di calcio, di calcetto, e a questo punto hai un portiere che si lamenta sempre, che dice, ecco, arriva troppo forte la palla. O l'arbitro che regala la partita agli altri. Oppure l'allenatore che la prima volta non ha esperienza. È chiaro che devi avere una squadra giusta. Non puoi pensare di ottenere risultati straordinari avendo un team mediocre alle spalle. Certo. Adesso ci fermiamo, facciamo un attimo di pausa, ci ritroviamo tra poco con Cuore Denari e con Marco Montemagno. Vi aspettiamo. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta. Cuore e Denari. La prima domanda da porsi per trovare la propria strada è la madre di tutte le domande. Quali sono i tuoi punti di forza? Non si costruisce un futuro sui propri punti deboli. Se sei un artista, è inutile cercare di essere un venditore. Prendi qualcuno che faccia il venditore. Valentino non si è mai occupato di marketing e di vendita. Valentino crea, mentre il suo compagno, Giancarlo Giammetti, fa l'uomo d'azienda, manda avanti la baracca, fa la parte pratica. La domanda numero due è: come performi meglio? In che modo rendi al massimo? Personalmente, e questo l'ho capito negli anni, la mia morte è quando mi metti in un ufficio, nella vita d'azienda classica, con le riunioni e tutto il resto. Non fa per me. Ammazza totalmente la mia creatività. Fa sparire tutte le idee. È normale. Ognuno ha un carattere diverso. Non c'è giusto o sbagliato. L'importante è sapere dove si rende meglio. C'è chi rende meglio da solo, chi in gruppo. Come performi al meglio, lo devi scoprire tu. La domanda numero tre è: quali sono i tuoi valori? Perché alla fine, a letto ci vai tu, solo con te stesso. Io ho avuto modo di collaborare con la politica. Facevo il consulente per la formazione digitale dei politici. E per me quel mondo è l'antitesi dei miei valori. Quando andavo a letto la notte, non dormivo tranquillo. E quindi ho capito che con la politica non devo averci nulla a che fare. E però l'elezione di Donald Trump ti ha stuzzicato, e come, perché dedichi una parte ampissima appunto del tuo libro. Marco Montemagno, in realtà abbiamo ritratto un altro brano tratto proprio dal Codice Montemagno, praticamente lo stiamo leggendo quasi tutto a beneficio dei nostri ascoltatori, ma Ugo che ci scrive: ma parlate dei webmaster e gli idraulici per esempio che devono fare? E gli architetti? Chiaro. Che abbiamo nel cuore. È un'ottima domanda questa, è un'ottima osservazione questa di Ugo, e spesso c'è un fraintendimento pensando che online possa essere utile solamente per chi lavora nel mondo del digitale. Non è affatto così. Per un idraulico è ancora meglio, perché c'è meno concorrenza. Mentre chi lavora nel tech, un webmaster, magari è già avvezzo, no? Usa già tutte le tecniche del digital perché è il settore vicino, quanti idraulici conosci che caricano ogni giorno un video online dove ti spiegano come si ripara il rubinetto, e quando io devo andare a cercare un idraulico, che è sempre un casino, diciamocelo. Okay. Dice a noi qua a Cuore Denari ce ne occupiamo, soprattutto a Ferragosto, sapessi quante ne capitano in Italia. E non sai mai cosa fai, chiedi un amico oppure cosa fai? Apri Google, esatto, apri il tuo telefonino e cerchi. Gialle o bianche, che cosa preferisci a quel punto? Preferisci trovare un idraulico che ha tutta una serie di video, una community entusiasta, che ci mette persone, la faccia nella che sua ci azienda, mette la faccia, ti spieghi, ti dà consigli utili e magari riesce a ripararti una cosina da te, ok? Ma diventa il tuo riferimento. Ogni volta che avrai un problema di idraulica chiami lui. O preferisci uno che invece non c'è, che ha un sito vetrina standard, che non fa assolutamente niente online e che manda volantini? Qual è, diciamo, la strategia che preferisci seguire? Io, se avessi un amico idraulico, o a Ugo consiglio, guarda Ugo, buttati online, Facebook video, ogni giorno credi, aggiungi valore, cerca di essere utile a chi sta dall'altra parte, prima ancora che ti paghino. Certo. Prima dare, per dare prima per poi ricevere. Fondamentale. Tanto guardi Ugo, se lei carica i suoi video, io non copierò la sua tecnica per cambiare i tubi, perché comunque incapace sono e incapace rimarrò. Avrò sempre bisogno della sua professionalità. Hai centrato un punto. Spesso uno non vuole dare via le proprie competenze perché ha paura che poi... Ma in questo caso invece io, come te, sono negato. Ho provato una volta a riparare... Chiamate me. Perfetto. Chiamate me che so. Invece ti interessa creare quel contenuto perché ti posizioni come un esperto del tuo settore e diventi un riferimento in quella materia. Può essere l'idraulico, può essere il parrucchiere o può essere l'estetista. Microfoni allora aperti, sì. Andiamo, perché c'è la storia della nicchia di mercato che ha sollecitato che prima Marco. Allora andiamo, esatto, ad Antonio. Buongiorno, ci chiama da Verona. Benvenuto. Buongiorno, Antonio, buongiorno, grazie. Eccola, è il suo momento, vada. Io mi occupo di formazione, è diventata da una passione, è diventato un lavoro proprio, vero e proprio. E il sentimento principale quindi è quello di raggiungere, cercando di essere utile, quante più persone possibile, mettendoci là una passione iniziale. Ma la nicchia di mercato come si fa a definire? In che modo possono esserci degli strumenti che aiutano a capire effettivamente come arrivare a quella, certo, particolare nicchia? Premesso che non ci sono ricette magiche, certo, e io non sono assolutamente il portatore del verbo e né sono il, diciamo, mi ergo a chi sa la verità. Ti do la mia opinione in base alla mia esperienza e poi ognuno trova la sua strada. Per le nicchie di mercato io mi muoverei così. Il mercato a cui ti rivolgi è un mercato abbastanza ampio, sì o no? È un mercato che ha un bisogno urgente, sì o no? È un mercato disposto a pagare per risolvere quel problema, sì o no? Se io oggi vado a vendere una bottiglietta d'acqua, c'è un mercato disposto a comprare una bottiglia d'acqua di colore blu? Sì o no? Bene, magari il mercato c'è ma è piccolo, allora probabilmente una nicchia che non è redditizia. È un'esigenza urgente quella che c'è in questo momento, sì o no? Poi far leva sui propri punti di forza è assolutamente fondamentale. Magari tu sei, il nostro amico di prima, Ugo, è un idraulico bravissimo a fare delle fotografie. C'è anche il camionista che, perfetto, ci chiede suggerimento. Perfetto, pure il nostro amico camionista dirà, ok, io non faccio dei video standard, metto una camera sul camion mentre guido e quello è il mio format migliore. E non si distragga con il telefono, fissa senza distrarsi. Esatto. Anna fa l'apicoltrice, sì, ci, fantastico, scrive: con internet ci vado forte per farmi reclam, per vendere le mie cose, insomma ci vuole, ci scrive Anna, quindi vedi, una tua fan. L'ascoltatore di Verona chiedeva anche con che dotazione tecnologica registri una camera video. Normalissima, ecco, non facciamo spot alla marca, però una normale camera, una reflex normalissima. Benissimo. Che si compra in un qualunque negozio. Marco da Bari, sì, che invece, buongiorno, è un artista, quindi esploriamo un altro, ottimo, campo. Marco, benvenuto. Ciao Marco. Musicista. Sì, eccomi qua, sì, io sono musicista jazz. Il musicista ha il problema opposto dell'idraulico, cioè è super affollato il web, persone, anche ragazzini, anche molto più avanti di me tecnologicamente, che, esatto, possano fare video con due lire e magari molto efficaci. Che ti sorpassano a destra, sì Marco. Esatto, quindi come contrastare questa cosa se bisogna comunque stare nello stesso mercato, diciamo così, degli altri musicisti, cioè tutti che pubblicano video? Se voglio arrivare a un grande pubblico io so come farlo magari, però magari sto tradendo la mia diciamo così, la mia anima artistica. Invece, come riuscire a convincere? Perché vi piace un po' essere ricercati, Marco, no? Non volete poi tanto. Io faccio jazz, quindi figurati se non lo sono io. La nicchia della nicchia. Io penso questo: parti da chi sono i tuoi potenziali utenti, dove stanno, su quale piattaforma. Magari sono su Instagram, magari li raggiungi facendo foto. No, non partire da un'idea generale, numero uno. Numero due, quindi parti al contrario, dove sono è i tuoi clienti. È che lui dice, si sente un pochino sminuito a dover frequentare il mondo internet di sua spontanea iniziativa. Ormai i più grandi musicisti sono online. Io ascolto Ocean, straordinaria, e c'è lui, questo musicista straordinario, che suona un pezzo di chitarra perfetto, 3 minuti, miliardi di visualizzazioni. Quindi il posto per avere, prendete Rovazzi, voglio dire, che non fa musicista e ha fatto un botto pazzesco. Quindi l'online è il posto giusto, però guarda dove sono i tuoi utenti finali, numero uno. E l'altra cosa è questa: non tutti dobbiamo avere miliardi di utenti. Guardati la teoria di Kevin Kelly, si chiama la teoria dei 1000 fan veri. Alla fine dei conti hai 1000 persone che ti danno 100 euro all'anno ciascuno, tu hai 100.000 euro che magari ti danno da vivere. Non è che diventi miliardario, ma magari puoi fare musicista, jazz, coltivare una cosa che ami e avere senza la possibilità doverti stare ad ossessionare, insomma, dei bravissimo risultati raggiunti tra la collettività. Massimo, benvenuto. Sì, buongiorno a voi. Ciao Massimo. Ciao, senti, la mia domanda è molto, molto semplice e non è tanto per me quanto per mio figlio, che sta facendo un master a Milano in management del turismo. Consigli cercare lavoro come dipendente, quindi facendo domande, mandando curriculum al di là della forma? Come si chiama tuo figlio? Daniele. Daniele. Perfetto. Allora, la prima cosa che conviene capire è anche il carattere di Daniele. Se Daniele ha un carattere intraprendente in un qualche modo, a questo punto la vocazione un po' più indipendente sarebbe utile. Ipotesi 2 è che cominci a fare esperienza lavorando in un'azienda e parallelamente ti costruisci quello che è il tuo posizionamento online. E uno dice, come faccio se lavoro tutto il giorno? Trovi un'ora al giorno da dedicare, al posto di guardare House of Cards o, capito, al posto di perdere tempo in cose che potresti, diciamo, fare dopo, lo dedichi per costruire quello che è il tuo posizionamento online. Quindi questo è un primo tema in generale, però poi va molto a carattere. Una cosa importante è non tutti abbiamo il carattere per essere imprenditori noi stessi. Ci sono persone che non vogliono, semplicemente vogliono lavorare per qualcuno. Se non altro perché, come dire, il peso fiscale, le pratiche burocratiche amministrative, esatto, per poterlo fare nel nostro paese qualche volta scoraggiano, e questo sarebbe un altro grande capitolo. Qual è il problema oggi? Che il posto fisso ormai è morto, questa è la verità. Poi uno può far finta che non sia così, nessuno lo vorrebbe, però diciamo che è quantomeno molto traballante. Ci fidiamo a lavorare in un'azienda che da un giorno all'altro magari ci manda a casa? Costruiamoci un piano di backup, questo è il mio consiglio. Deborah, ormai siamo arrivati alla fine di questa puntata speciale di Cuore Denari. Non ci resta che salutare i nostri amici, no? Augurare loro magari un buon proseguimento di questa giornata di festa. Una buona Pasquetta a tutti. In diretta, come sempre, vi aspettiamo domani dalle 10.30 a mezzogiorno. Intanto scattate le vostre foto e mandatele a Cuore Denari. A domani, buona giornata. Buona Pasquetta.